puntata speciale di Non ci sono più le mezze stagioni questo sabato, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Tra maggiori consapevolezze salutiste e diktat della moda, com'è cambiata la percezione del corpo negli ultimi 20-30 anni? Ne discuteremo a Non ci sono più le mezze stagioni. Io, Roberta Giordano, e tanti ospiti. Siateci dunque sabato alle 14 su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.